5D. Ascolta e rispondi. 1. Che cosa mi scriverà? Le scriverò una lettera. A chi scriverà una lettera? La scriverò a lei. Mi scriverà una lettera? Sì, gliela scriverò. 2. Che cosa mi mostrerà? Le mostrerò la via. A chi mostrerà la via? La mostrerò a lei. Mi mostrerà la via? Sì, gliela mostrerò. 3. Che cosa mi offrirà? Le offrirò una cena. A chi offrirà una cena? La offrirò a lei. Mi offrirà una cena? Sì, gliela offrirò. 4. Chi mi presenterà? Le presenterò un'amica. A chi presenterà un'amica? La presenterò a lei. Mi presenterà un'amica? Sì, gliela presenterò.